Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'ultima eclettica della settimana, quella del venerdì, visto che Eclettica è presente sulle frequenze di Rock FM dal lunedì al venerdì fra le 19 e le 20. Giulio Caperdoni in vostra compagnia che vi porge il benvenuto e vi ricorda che l'indirizzo giulio@rockfm.com è da utilizzare non solo per scrivermi direttamente, ma anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica, che vi permette normalmente di ricevere le playlist della trasmissione settimana per settimana, ma di tanto in tanto, e questo sta per succedere nei prossimi giorni, vi permette anche di vincere biglietti, vincere abbonamenti, come nel caso in questione, abbonamenti alla seconda edizione del Next Tech Festival che si terrà a Firenze dal 20 al 22 settembre, musica elettronica e ambiente visivo, ma bisogna essere parte della lista nera. Ed ora siamo pronti per cominciare. Passò più di un anno prima che rivedessi Dean. Tutto questo tempo ero stato a casa, avevo finito il mio libro e cominciato ad andare all'università, approfittando della legge sulle provvidenze per i reduci. Nel Natale del 1948, mia zia ed io andammo giù in Virginia a trovare mio fratello, carichi di doni. Avevo scritto a Dean e lui aveva risposto che stava per venire di nuovo nell'est. E io l'avevo informato che in questo caso mi avrebbe trovato a Testament in Virginia, fra Natale e Capodanno. Un giorno, mentre tutti i nostri parenti meridionali se ne stavano seduti in cerchio nel salotto a Testament, uomini e donne severi, con l'antico suolo del meridione negli occhi, parlando a voce bassa, lamentosa, del tempo, dei raccolti, e facendo la generale annoiata ricapitolazione di chi aveva avuto un bambino, di chi aveva comprato una nuova casa e così via, una Hudson ultimo modello tutta inzaccherata si fermò davanti alla casa sulla strada polverosa. Non avevo idea di chi potesse essere. Un giovanotto stanco, muscoloso e stracciato in maglietta, con la barba lunga e gli occhi arrossati, venne sul portico e suonò al campanello. Aprii la porta e mi resi conto all'improvviso che si trattava di Dean. Aveva fatto in una sola tirata la strada da San Francisco fino alla porta di mio fratello Rocco in Virginia. E in un tempo sorprendentemente breve, perché avevo appena scritto la mia ultima lettera nella quale gli dicevo dov'ero. Potei vedere due figure addormentate nella macchina. Che il diavolo mi porti, Dean! Chi c'è nella macchina? Salve, salve amico! È Mary Lou e Ed Dunkel. Dobbiamo trovare subito un posto per lavarci. Siamo stanchi morti. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. Thank you. replacement for the face and sack? That's us. And I'm Daphne. This is Joe Zabine. Yeah. I'm Sugar Cane. Hi. Sugar Cane? Yeah, I changed. I used to be Sugar Kowalczyk. Polish? Yes. I come from this musical family. My mother is a piano teacher. My father was a conductor. Where did he conduct? On the Baltimore in Ohio. We'll be right back. stato un inizio molto intenso, quello di Eclettica di quest'oggi dal punto di vista musicale, perlomeno questa è la mia opinione. Vi ricordo che voi avete sempre la possibilità di controbattere o di confermare a Giulio e Radio rockfm.com. Un inizio molto intenso aperto con il gruppo di Portland, Oregon, di nome Grails, gruppo che è uscito per Temporary Residence in questo 2007 con un album dal titolo Burning of Impurities, dal quale ci siamo ascoltati Soft Temple. Poi è stata la volta degli scozzesi The Twilight Said and She Would Darken the Memory, il titolo del pezzo che si è appena chiuso. Ed ora invece alziamo i ritmi, andiamo verso territori più pop ad ascoltarci i Schooner, che provengono dal North Carolina, per la precisione da Chapel Hill. È un quintetto che ha già dal 2004 ad oggi avuto una serie di pubblicazioni, ma è con il nuovo album uscito nel mese di agosto dal titolo Hold On Too Tight che hanno acquisito un po' di visibilità anche all'interno degli Stati Uniti stessi e poi al di fuori, come state appunto verificando voi stessi. Carborough è il titolo del pezzo che ci ascoltiamo in Eclettica. Loro sono i Schooner. L'ora che seguì ci fu una confusione completa. I miei parenti meridionali non avevano alcuna idea di quel che stesse accadendo, né chi o che cosa fossero Dean, Mary Lou e Ed Dunkel. Stavano muti a guardare. Mia zia e mio fratello Rocky se ne andarono in cucina a confabulare. C'erano in tutto 11 persone nella piccola casa del meridione. Non solo questo, ma mio fratello aveva appena deciso di traslocare da quella casa e metà della sua mobilia era già partita. Lui e sua moglie e il bambino si trasferivano più vicino alla città di Testament. Avevano comperato un salotto nuovo e quello vecchio stava per essere spedito nella casa di mia zia, Patterson, quantunque non avessimo ancora deciso come. Quando Dean sentì questo, offrì subito i suoi servigi con la Hudson. Lui e io avremmo trasportato i mobili a Patterson in due rapidi viaggi e avremmo riportato indietro mia zia alla fine del secondo. Questo ci avrebbe fatto risparmiare un mucchio di soldi e di fastidi. Così fu deciso. Mia cognata preparò la tavola e i tre sfiniti viaggiatori si sedettero a mangiare. Mary Lou non aveva dormito da Denver. Pensai che adesso sembrava più matura e più bella. appresi che Dean aveva vissuto felicemente con Camille a San Francisco sin da quell'autunno del 1947. Aveva ottenuto un lavoro nelle ferrovie e si era fatto un sacco di soldi. Era diventato padre di una graziosa bambina, Amy Moriarty. Poi, un giorno aveva perso la testa all'improvviso mentre andava a passeggio per la strada. Aveva visto in vendita una Hudson ultimo modello ed era corso alla banca a ritirare tutto il suo gruzzolo. Aveva comperato la macchina lì per lì. Con lui c'era Ed Dunkel. Adesso erano in bolletta. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. C'è un brano che ci separa dalla conclusione della prima parte di Eclettica di quest'oggi. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, comunque, fino alle ore 20. Ci siamo appena ascoltati Michael Dracula, band che proviene dalla città di Glasgow, anche se il tutto ruota attorno a Emily McLaren, che è a tutti gli effetti originaria dell'Ohio. Sono usciti con un album, In the Red, per la Zee Records, uscito da poche settimane, dal quale ci siamo ascoltati Please Don't Take This the Wrong Way. Si prosegue ancora con protagonisti al femminile, in quanto è la volta di Art in Manila con The Abomination. Art in Manila, il nuovo gruppo di Orenda Fink dopo lo scioglimento delle Azur Ray. Shout. When we land, it'll be better.